Storiacce di Raffaella Calandra. Cioè, come è successo questo, c'è anche in altri quartieri, in Iraq, oppure, cioè, uccidono bambini appena nati. Là ci sta la guerra. Qui è la stessa cosa, questa è una guerra pure qua. Io non ho fatto un pazzo da studio, ma mi fa pigliare, o mi fa sparare. A questo momento, voi siete luce, un coro e arrabbiamento. E vi posso assicurare una cosa. Ci ripigliamo tutta quella che è un nostro. Lasciato alle spalle il sole che brilla sulle rigiole di antichi palazzi, entriamo nei vicoli affollati dell'ultima trincea di Napoli, dove un 17enne a settembre è morto così, per caso, mentre baby criminali facevano la cosiddetta stesa, correre sui motorini e sparare all'impazzata, per provocazione, per affermazione del potere. E poi, pochi mesi dopo, altri due corpi erano stesi a terra, coperti da lenzuoli, a poca distanza da circoli e passanti. È qui, nel rione della sanità, che fu di Totò la nuova Gomorra, quella che ora divide e appassiona in TV e nei dibattiti pubblici. È qui dove la storia e le contraddizioni di Napoli si stratificano tra luce ed ombra. Che effetto hanno le gesta di Jenny Savastano in chi la camorra la incontra da sempre? Autorevoli voci si schierano da una parte o dall'altra. Per Ilda Boccassini, capo dell'antimafia a Milano, ma napoletana di origini, quelle immagini spingono il Sud a cambiare, non lo infangono, scrive. Ma invece è proprio questo che manca, la speranza, secondo un altro magistrato partenopeo, Raffaele Cantone. Il presidente dell'Authority Anticorruzione teme che il male raccontato nella serie TV non si percepisca come fiction e potrebbe avere l'opposto della reazione positiva suscitata invece dal libro Gomorra di Saviano. Tutto quanto teniamo una ferita, un'umiliazione, un morto a chiagnere. La mano che ci ha fatto male è sempre la stessa. E Savastano. Un po' quello che un altro PM, Catello Maresca, obiette, che con toni ancora più determinati già disse mesi fa proprio a Storiacce il questore di Napoli, Guido Marino. Ma allora, prima di immergerci nelle ragioni del sì o del no a Gomorra, la serie televisiva in onda 10 anni dopo il successo del libro, torniamo per strada, tra i vicoli di Napoli, dove si spara, si resiste, dove una trans è stata accoltellata citando battute di Gomorra e urlando il nome di Salvatore Conte. Ma secondo voi, Gomorra sì o Gomorra no? Può avere un effetto positivo o negativo la fiction che trae ispirazione dal libro di Roberto Saviano? Abbiamo battezzato un'alleanza nuova. A salute. Salute. Salute. Scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter l'account Raff Calandra. Altrimenti fateci sapere la vostra opinione con un messaggio anche WhatsApp al 349 238 6666. E da qui parte allora questa nuova puntata di Storiacce. I suoi amici che fanno così, che cosa fanno? A volte c'è una pace, cercano qualcosa di lavorare. Dipende, va a circa, va a sparare, va a rubare, cosa così. Sai, una da circa a qualcuno, basteranno 1.000, 2.000 euro, ma non vanno pure a circa. Il problema non so quello. Ciro fa il meccanico, proprio come Luigi Galletta, e ha la stessa età del suo collega di Forcella ucciso quest'estate perché si era rifiutato di truccare dei motorini. Luigi sapeva a cosa dovevano servire quei mezzi più potenti e non ha voluto prestarsi, come lo sa ora perfettamente Ciro. È sulle due ruote, infatti, che si muove il messaggio di chi cerca di farsi riconoscere come capo della zona e lo fa, trivellando di colpi le saracinesche di quelli a cui chiederanno poi soldi e così confida di imporre il nuovo equilibrio dopo che i precedenti sono saltati. Infatti sono un ragazzo che lavoro. Mio padre è disoccupato, mia madre è disoccupata. E di questi ragazzi che adesso sparano, si sparano tra di loro. Io ho anche di amici così, ma purtroppo madre e padre che non lavorano, i ragazzi hanno bisogno di soldi, cioè qualcuno vuole ancora doppio quello che vuole. E va a circa, va a sparare, va a rubare, cosa così. Sai, una da circa a qualcuno, basteranno 1.000, 2.000 euro, ma non vanno pure a circa. Il problema non so quello. Tanto su qualcuno. La città di Napoli si capisce appena capire. Napoli è bellissima, però non ti può dare niente. Che stai? Scendo